Coach Ganymede. Believe you. I wouldn't put myself in that thing's... Sebbene la violenza si mascheri dietro un'infinità di pretesti... Sebbene la violenza si mascheri dietro un'infinità di pretesti... Sebbene la violenza si mascheri dietro un'infinità di pretesti. Do what you can to make her comfortable. Believe you. Sebbene la violenza si mascheri dietro un'immunità di pretesti. Sebbene la violenza si mascheri dietro un'immunità di pretesti.